nessuno. Auguri al tempo che passa, all'invisibile che non si consuma e suona la gran cassa. Auguri a questa età delle paure, ai precipizi di ogni giorno. Auguri al sole che fa salire il grano e scalda il ventre del mio orto. Auguri agli stranieri, a chi è straniero nel suo corpo, al sogno eterno dell'amore che ha sempre qualcuno a bordo, alla fronte spoglia dei malati, felicità. Auguri agli assediati da se stessi e dai nemici, a chi conosce della gioia le radici. Scusa per il rumore che fa la mia vita, per non avere nel cuore il silenzio della neve e il suo sciogliersi senza dolore. Scusa per il rumore che fa la mia vita, per non avere nel cuore il silenzio della neve, ma il frastuono di mille parole. Auguri a chi non sa dove cercare, che non è che ha sbagliato niente, al sogno acceso mai raggiunto, che brilla libero nella tua mente. Auguri al cielo delle acrobazie, dell'infanzia, al mare vivido delle utopie, al silenzio come forma di eleganza. Auguri ai morti senza funerali, al canto vivo nella gola, a chi si sfida e non affonda. Auguri a chi non si consola, auguri a chi va via senza padroni, ai passi che sanno di vento. Auguri ai fragili, a tutti gli innocenti, a questa resa da cui nasce il nostro canto. Scusa per il rumore che fa la mia vita, per non avere nel cuore il silenzio della neve e il suo sciogliersi senza dolore. Scusa per